non è che non esulto, quei ragazzi hanno fatto qualcosa di eccezionale. Vorrei esultare il 10 marzo. Dobbiamo convocare la banda. Tutti convocati di Carlo Genta e Pierluigi Pardo. Accompagna a sinistra Gossens. Gomez genera di rigore, ne ha due di fronte, libera il sinistro, il cross sotto portante Burr, rete Atalanta in vantaggio, a De Burr, sedicesimo a San Siro, esplode il popolo bergamasco, Atalanta avanti. Larga Gossens, si propone il Papu che viene ignorato però, ma non è centrale per Ilicic, subito braccato, in tre lo circondano, Ilicic, va il tiro, Ilicic, rete, un gol meraviglioso, Ilicic ha fatto un gol straordinario. Ha segnato il primo gol di Champions League, però più di questo sono contento per la vittoria che abbiamo fatto. E niente, voglio ringraziare tutti quanti perché è stata una notte fantastica con tutto sto pubblico che è arrivato da Bergamo, una cosa magnifica per noi giocatori, per tutti quanti che ci teniamo questa maglia. Arriva Freuler, ancora l'Atalanta in zona d'attacco, Freuler in area di rigore, arriva in zona tiro, Freuler! Impazzisce San Siro, 3-0! Attenzione che parte in posizione regolare, a De Burr, vola verso l'area avversaria, davanti al portiere, a De Burr, parte il tiro! Rete! Rete! Cale il poker l'Atalanta! San Siro una bolgia! San Siro una bolgia! 4-1 è un grande risultato, poi noi è chiaro, se vogliamo andare ai quarti di Champions abbiamo bisogno anche di dare una dimostrazione di, anche tecnica di precisione, di andare a giocare su un campo così e su uno stadio così difficile, ce lo dobbiamo meritare assolutamente là, e questo è una scommessa anche per noi. Buongiorno a tutti, siamo in esterna oggi, tra Verona e Atalanta non c'è esattamente buon sangue, anzi grande rivalità sportiva, per oggi esterna a Verona, progetto fuoco, nel giorno in cui celebriamo l'Atalanta, nessuno si arrabbia. Andrea D'Amico, buongiorno, grazie. Buongiorno, buongiorno a tutti. Principe del Foro dei Procuratori, ciao Pierluigi Pardo. Ciao, come va? Ciao Andrea. Ciao Pier. Stavolta manchi qui a Verona, Pier, ti aspettiamo alla prossima. Amico, Amedeo Carboni. Ciao Amedeo. Ciao, l'abuelo. Ciao. Ciao. Come state tutti? Tutti bene? Che passa, sì, abuelito? Sì. Tutto bien? Muy bien. Bandiera del Valencia. Valencia un po' meno, mostruosa Atalanta più che altro, Amedeo. Trito Valencia, resistenza iniziale, poi troppe assenze e troppa Atalanta, mi pare. Sì, un che po' dici, hai fatto riassunto tu. Sì, hai fatto il riassunto giusto. Il Valencia mancano tre giocatori titolari importanti, fondamentali per una squadra che si è visto debole ieri sera, debole un po' anche in balia un po' dell'Atalanta spesso, che però ha avuto le occasioni. Io lo dico sempre, per me la buona partita è stata aperta, l'Atalanta ha dominato nel piano del gioco, però una partita poteva venire 6-3, 6-4, perché obiettivamente è quello che è stato un po', da una parte 4 gol dell'Atalanta, sorpreso, no, non è tanto sorpreso, però 4 gol sono tanti in un ottavo di finale, non è facile, finalmente le partite finiscono sempre con risultati proprio scarni, però allo stesso tempo ha anche subito l'Atalanta. Io non li avevo mai visto, le 4-5 partite che ho visto in Atalanta, non li avevo mai vista fare tanti errori anche, perché obiettivamente in molte occasioni il Valencia era un frutto di errori. Sì, è una squadra che ha grande sicurezza offensiva e forse insomma è di quelle squadre che dice vabbè, prendiamo un gol, palla al centro, tanto ne facciamo uno in più. Comunque l'Atalanta è questa, non è magari il massimo della solidità difensiva, ha concesso qualche occasione al Valencia, però ragazzi, davanti a una macchina da guerra, Pierluigi. Sì, guarda, è un po' la partita che avevamo anche detto, fatto capire. Un po' di tentazione di dirlo prima c'era, perché l'Atalanta di questo periodo e il Valencia con le sue assenze rendevano possibile quello che abbiamo visto ieri sera. Poi nell'ambito di un'analisi un pochino più attenta della partita, sicuramente ha ragione Amedeo, nel finale l'Atalanta ha rischiato, anche nel primo tempo comunque ha concesso delle occasioni, è stata una partita aperta, non è ancora chiusa, l'Atalanta ha ancora il piccolo limite di non saper proprio gestire, non sa cosa voglia dire la gestione della partita. Cioè, il modo migliore per difendersi per l'Atalanta secondo me è attaccare. Quando ieri a un certo punto si è messo a speculare sul risultato, ha fatto tantissima fatica. Non sono bravissimo in quello. Quando si è ributtata avanti con l'ingresso di Zapata, ha concesso di meno, dava un'idea di sicurezza diversa, quindi è proprio un kit che non ha a disposizione, ma va bene così. Insomma, finché fai 4 gol va bene così. Sono d'accordo con Gasperini, al ritorno bisogna scendere in campo per segnare, perché lo 0-3 è un risultato possibile, difficile ma possibile, e invece secondo me se l'Atalanta se la gioca alla pari può portarla a casa, ecco. Cioè, se la gioca a viso aperto, non gestire, al ritorno, non deve gestire cose in cui non sono tanto bravi, non deve gestire, è difficile capire, Andrea, il valore assoluto di questi giocatori. Ieri Zapata e Muriel in panchina, poi ha messo Zapata, sembra quasi che Gasperini abbia il joystick in mano, no? Muove la squadra come vuole, però è difficile capire il valore assoluto di questi giocatori. Ad esempio Ilicic è uno che, se avesse, dice un mio amico, se avesse 90 minuti, quella continuità per 90 minuti sarebbe Zidane, invece non è esattamente Zidane, magari arriva a 45 adesso, e che è già tanto. Ma guarda, l'Atalanta è un mistero, nel senso che è un'alchimia così straordinaria per quello che ha raggiunto, che è un mistero anche durante la settimana, perché ad esempio negli allenamenti ha messo il secondo e il terzo portiere a fare gli stopper, poi dopo, cioè è veramente un'alchimia particolare quella che è riuscito a creare Gasperini, è difficile da spiegare, ma soprattutto concordo con tutto quello che è stato detto finora, e è incredibile, è difficile pesarla, perché poi non sai mai, quando questi giocatori poi vengono venduti a delle squadre più importanti, anche se possono dare le stesse prestazioni oppure no, perché tante volte almeno quello che è successo finora è che hanno fatto benissimo lì e poi quando sono andati in squadre più importanti invece hanno un po' deluso. Allora ti viene da dire, è il contesto, è l'allenatore, e anche nelle partite succede così, perché nella stessa partita c'è la differenza di quello di cui stiamo parlando ora. Guarda, perché una Atalanta che poteva anche fare più gol, perché non dimentichiamo, poteva anche prendere degli altri, cioè è, secondo me, veramente ad immagine e somiglianza del suo allenatore. Sì, basta vederlo in panchina e capisci già che è psicadelico. Tu cosa ne pensi, Amedeo? Hai giocato in una squadra miracolosa arrivando alla finale di Champions, eccetera. Appunto, questa non arriverà alla finale. Mi viene in mente l'effetto Cooper. Cioè, se un esempio assolutamente simile a quello che diceva Andrea è stato quel Valencia lì, che aveva dei grandi giocatori, che però poi pensiamo a Mendieta, pensiamo a Farinós, erano giocatori che poi, usciti da quel contesto, erano meno performanti, perché c'era un quid. La base forte era un'idea. Certo. No, ma è così, quello che avete detto, ragazzi, corrisponde a quello che abbiamo visto e che è un paradiso l'Atalanta. È anche vero che il fatto che c'hai lo stesso allenatore per 4 anni, molti ragazzi giovani, che Gasperini, bisogna dire, è uno che ha sempre lavorato con i giovani, ha sempre lavorato bene. Ora, quello che dovrebbe fare l'Atalanta, specialmente siccome riesce a fare sempre abbastanza gol, è, come avete voi, gestire. Quindi in panchina dovrebbe avere, che so, un Andrea Pirlo con 36 anni, 37, o anche un Pareco del Valencia, che quando i ritmi sono bassi, C'è Andrea D'Amico che scuote la testa, facciamogli dire perché. Sai perché? No, Amedeo, perché fondamentalmente Gasperini non vuole giocatori che si gestiscano, e tu sai benissimo che quando hai una certa età ti devi gestire. Lui non vuole vedere mai nessuno infortunato, come se gli infortuni fossero solo del gioco delle carte e non del calcio. Non vuole mai nessuno in rehab, e quindi il suo estremismo lo porta proprio ad ottenere questi risultati, perché è estremista nella quotidianità lui. Cioè lui vuole un come hai detto tu, un 36enne Pirlo che però stia in panchina e non dia mai il minimo segno di insofferenza perché non gioca. Cioè, e al tempo allora stesso vuole tutti i giovani. Cioè, e d'altra parte è essere Gasperini il motivo per cui potrebbe ha avuto difficoltà quando ha allenato l'Inter, ok? Sì. E potrebbe avere altrettante difficoltà magari in futuro ad allenare una grande squadra, è che o la società lo segue pedissequamente come sta facendo adesso per Cassi, dando a lui i massimi poteri, o altrimenti è difficile. Però mi viene da dire a me che questo forse si disegna come un limite, no? Di tutto quanto, Gasperini compreso. Ma i limiti chi è che non ha limiti? Ora non si può dire un limite, è una filosofia di vita che gli dà grandi soddisfazioni, ha detto bene Andrea, dopo devi fare il salto di qualità, perché andare all'Inter è un salto di qualità, andare in una delle più grandi squadre d'Europa è un salto di qualità, però non hai potuto lavorare quella che è la filosofia, perché oggi sappiamo benissimo, molti giocatori hanno uno status, un symbol tremendo, che è difficile che si esprimano al 100% in un allenamento, perché c'è il dopo allenamento, c'è il social, c'è la segna stampa, c'è visita degli sponsor. Invece sono giovani, delle aziende, pensa giovani. A Cristiano Ronaldo, sono delle aziende. Sì, ma poi io credo che Gasperini di oggi sia diverso da Gasperini che è andato all'Inter qualche anno fa, in termini sia di bagaglio personale che anche di percezione da fuori. Cioè oggi Gasperini è diventato di no, un bigger. Pier. Come modo di interpretare in maniera integralista il suo lavoro, questo sì, però io dico che oggi viene anche percepito giustamente in maniera diversa, perché quello che sta facendo l'Atalanta è clamoroso, quindi secondo me anche il percepito, cioè Gasperini quando arrivò all'Inter era veramente un outsider, oggi è un allenatore fatto, finito, che allena una grande squadra, che ha rinunciato l'anno scorso, lo sappiamo, alla tentazione di andare alla Roma per vivere questa esperienza con l'Atalanta, cioè è cambiato completamente tutto, è cambiato lo status di Gasperini e quello dell'Atalanta. Quello che non è cambiato, posso essere d'accordo, è la sua filosofia. Cioè, è chiaro che il suo modo di intendere il calcio è quello. Di vivere il calcio però... è quello. Piero, hai parlato di Roma, fammi chiedere una cosa da Amedeo Carboni, che poi salutiamo. Hai parlato con Florenzi? Sì, ci siamo sentiti, anche perché conosco bene il suo procuratore da tanti anni. Ti dico la verità, non sarà facile per lui... perché praticamente hai solo tre mesi e mezzo per esprimersi al 100% e cercare quello che è il vero obiettivo di rimanere nella lista della nazionale. Non è facile per un giocatore di Roma, capitano della Roma, avere tre mesi e mezzo in una nuova dimensione e essere già competitivo al primo giorno. Non mi è sa facile. Che quella situazione la conosce abbastanza bene, eh? Sì, da capitano della Roma. No. A proposito di Roma, ti chiedo ancora questo: avrai sentito Fonseca, no? La conferenza stampa l'altro giorno, l'ambiente, vabbè, se non volevo vivere in questo ambiente andavo ad allenare da un'altra parte, non allenavo a questo livello, l'ambiente romano non deve diventare un alibi se non facciamo bene. A Roma, momento estremamente difficile, tu cosa ne pensi? Roma è una piazza che tutti voi sapete bene, dove se resisti un paio d'anni già puoi giocare in qualsiasi parte del mondo, perché lì c'è una pressione dal lunedì al venerdì tremenda, al sabato lì, diciamo. Però fa anche parte del bagaglio tecnico di un giocatore, sono esperienze di dove non puoi mollare mai, dove a Roma cambia dalla mattina alla sera, può cambiare opinione. Non è facile, tanti media lì che sempre attaccano o ti aiutano, ti attaccano. È un ambiente particolare, però allo stesso tempo io credo che tutto viene dalla società, nel senso che se la società non dà una linea di guida forte e sicura, man mano che scendi dalla cima la gente si può perdere. Secondo me è quella la direzione che deve prendere la società. È una piazza difficile da gestire, però tutto comincia per la società, secondo me. Viene a domandarsi quale società, perché in questo momento è tutto un po' fumoso, facciamo così, tutto un po' incerto. Sono tante un po' le incertezze, però una cosa che vedevo in generale, no, è che sono tante le proprietà straniere che sono arrivate ormai in Italia, lo sono anche di più, anche per dirti, anche nelle categorie inferiori, anche il Venezia, ieri ha di nuovo proprietario. Perché comunque, guarda, questo riporta al vecchio discorso, è ora di cambiare un po' il sistema, secondo me. Perché il mio auspicio è che queste proprietà straniere possano fare quello che gli italiani finora non hanno fatto. Ora, ci vogliamo rendere conto che una proprietà investe nell'azienda calcio per avere un business plan, una sicurezza, delle strutture, poter investire avendo anche la sicurezza di una categoria. Io penso che prima o dopo, abbiamo parlato per tanti anni della tecnologia in campo, è arrivata. Adesso io è tanto che dico che deve essere chiamata la VAR, vedrete che ci arriva, perché comunque è un diritto di una squadra il fatto di poter chiamare la VAR se ha visto degli atteggiamenti sospetti che non sono stati evidenziati dall'arbitro piuttosto che da quelli della VAR. E si arriverà anche a riformare il sistema. Allora, due sono le cose: o si danno più soldi alle piccole e a quelle che retrocedono, creando la possibilità di un imprenditore di investire nel calcio, farsi il suo centro sportivo, lo stadio, il centro commerciale anche, perché sennò non stai in piedi giocando una volta ogni 15 giorni in casa, o altrimenti uno investe se ha la sicurezza della categoria, e quindi arriveranno le franchigie un po' come in America. Guardate, la cosa vera, Carlo, è che già i presidenti di Serie A stanno ragionando per far retrocedere solo una squadra. E sì, quindi in Italia è un discorso molto difficile da praticare, perché sappiamo come questa permeabilità tra una categoria e l'altra sia fondamentale. Amedeo, tu cosa ne pensi? Poi ti saluto. Ma sai, anche lì dipende come torniamo alla base. Intanto, se non c'è delle federazioni, cioè, stanno avendo dei cambiamenti. Io credo che le cose andranno a migliorare. Quello che dice Andrea è il futuro. Succede in Inghilterra, sta succedendo in qualche parte in Spagna. Voglio dire, il futuro è quello di creare delle aziende, non sono più delle società di calcio, sono vere e proprie aziende dove tutti. Certo. Certo, ci sta la possibilità di un ritorno economico. Io per esempio, che una società che ristruttura gli stadi, io so benissimo il beneficio economico di un ritorno, di avere uno stadio nuovo. L'Atletico Madrid, Valencia, Betis, Siviglia, Malaga, Levante, Celta de Vigo, sono tutti stadi miei che io ristrutturo, e c'è un ritorno economico, un business che ora solo in questo momento le società si accorgono. Oggi l'agile stadio deve essere usato, non dico 7 giorni alla settimana, chiedo troppo, però almeno 4-5 giorni sì. Ecco, certo. Perché no, ma basta fare un giro a Torino e vedere cosa c'è intorno allo stadio della Juventus per capire come si deve ragionare in termini di futuro. Amedeo, grazie, un abbraccio, quando passi da Milano grazie, ti aspettiamo. Un saluto a tutti voi, ciao Andrea. Ciao Amedeo. C'è Massimiliano da Lucca, lo ascoltiamo. 800240024, WhatsApp vocali 349-238-6666. Buongiorno. Buongiorno a voi. Volevo fare due brevissime considerazioni. Intanto i complimenti all'Atalanta dati da un tifoso juventino, perché ci ha estasiati con questo calcio meraviglioso. Vorrei dire che da tifoso juventino credo che molti sarebbero d'accordo con me, che scambierei volentieri Gasperini con Sarri, perché al di là di come fa esprimere le squadre rappresenta proprio perfettamente lo stile Juve, anche proprio come portamento, come parlantina eccetera, al contrario di Sarri. Detto questo, all'inizio dell'anno io dissi che l'Atalanta ha il miglior attacco, o forse il secondo della Serie A. E dovremmo dare i giusti meriti a due giocatori in particolare, Ilicic e Papu Gomez, che sono due fuoriclasse e troppo sottovalutati dalla critica. Troppo sottovalutati, siamo sempre lì, hanno raggiunto questi livelli in quel contesto lì. Esatto. Poi non lo so, Gasperini, se la mettiamo sul portamento, lo stile, l'abilità in conferenza stampa eccetera eccetera, quello che dice come si comporta va bene, però se noi facciamo una questione più di sostanza, io credo che Gasperini sia molto più distante di Sarri dalla Juventus. No, io penso che dal punto di vista tattico Gasperini e Sarri rappresentino comunque un'idea di calcio abbastanza simile, possono essere diversi moduli, possono essere diversi, però insomma complessivamente è l'idea di un calcio non basato sulla speculazione, appunto, certo, sulla gestione delle partite, ma sul controllo e sul dominio. Quindi secondo me sono abbastanza simili come cultura, sono diversi, e sono abbastanza d'accordo con l'ascoltatore dal punto di vista, diciamo, dell'extra calcio, perché secondo me Gasperini, che comunque ha un passato anche alla Juve, sia pure nelle giovanili, insomma è piemontese, sicuramente è più affine. Poi come sempre conta anche molto il momento, magari adesso la Juve vince 4 partite di fila e fra un mese c'è la beatificazione di Sarri, tutto va un po' capito. Su Ilicic io, vabbè, è la sua migliore stagione in assoluto secondo me. Vi dico che Cassano ieri sera mi mandava 200 messaggi, insomma, sta impressionando tu, no, ma è una cosa incredibile, perché è un giocatore solo veramente... che ha fatto, dai, gli ha chiuso il sinistro, sì, aspetta che questo va a sinistra, lo stop all'inizio del gol, gli chiude il sinistro, segna di destro. No, è un giocatore abbastanza tipico Ilicic, nel senso che è un giocatore con delle caratteristiche appunto non tradizionali, perché è forte fisicamente ma è anche molto agile, è un bel mix quindi di potenza e di qualità tecnica. Non è semplicissimo da inserire tatticamente, perché appunto è di quelli ambivalenti, no? Polivalenti, può giocare anche in ruoli diversi, giocatore fenomenale. Il Papu secondo me sta facendo una stagione molto buona. Tra i due secondo me il vero crack della stagione è Ilicic, cioè ancora più che il Papu, però il Papu è importantissimo anche lì per la sua utilità tattica. Sappiamo che Gasperini, come se avesse un joystick in mano, lo sposta da una posizione all'altra anche nell'ambito della stessa partita. È un leader, vale, credo, per anche comportamentale. Sì, per due giocatori dell'Atalanta. Io penso anche che il valore aggiunto di questa Atalanta sia assolutamente la preparazione fisica. Certo. Perché certo. Sembra quasi che siano interscambiabili i giocatori che arrivano all'interno di questo puzzle. Verissimo. Va via uno, arriva l'altro, e comunque le prestazioni migliorano di anno in anno, perché la verità è che a mio avviso un po' il livello tecnico internazionale si è abbassato. Adesso tutto punta sulla fisicità, e loro per quanto riguarda la preparazione fisica non sono secondi a nessuno. Però quanto dicevamo Sarri Gasperini è in contraddizione con quanto dicevi tu, no? Io ho detto è l'opposto rispetto a Sarri proprio per quelle ragioni lì, cioè perché ha bisogno di giocatori che non abbiano mai 37-2, che siano sempre motivati a salire. Guarda, 365 giorni all'anno, che siano giovani, che hanno tutte caratteristiche che ovviamente in un club come la Juventus, bravissimo, devi scendere a compromesso. Cioè, ti dico solo una cosa, che Kjær era, ad esempio, doveva giocare in Ucraina, nell'allenamento prima della partita era titolare, poi c'è stato un piccolo qui pro quo, no? Tra loro due, ma a livello di sguardi o di espressioni gli ha detto vai via, non cambiarti, non convocarti, ok? L'hanno venduto. Per questo, per dirti, Gasperini integralista, no? Sì. Integralista. Allora, ci sono degli allenatori, secondo me, che sono fondamentalmente degli innovatori e dei gestori, e gli altri che sono dei gestori. Quando tu arrivi in una grande squadra, comunque, anche se sei un innovatore, certo, devi comunque gestire, perché ci sono delle dinamiche aziendali che comunque sono diverse dal fatto di avere un proprietario illuminato e un businessman bravissimo come Percassi, come presidente, che ti dà pieni poteri, un direttore sportivo che ti va a prendere i giocatori dove tu gli dici ho bisogno di un'ala, prendi chi vuoi, basta che sia un'ala con queste caratteristiche, e ci va. E cioè è difficile trovare queste situazioni in una grande squadra. La differenza tra gestire e una poi quando arrivi, cioè mettiamo Gasperini, arriva alla Juventus il prossimo anno e trova ancora Ronaldo, trova Higuain, cioè sono quanti? 40 giocatori da gestire così, non puoi non gestirli, non puoi dirgli a Ronaldo non voglio vederti sul lettino. Il problema è quello, il problema è che devi scendere a compromessi con i tuoi principi. È quasi un altro lavoro. Quanto sei disposto a scendere a compromesso, ognuno fa i conti per sé. E Allegri lì era stato bravissimo, secondo me. Senti, io sono due giorni, Pier, che sapendo che viene Andrea D'Amico, sono due giorni che muoio dalla voglia di fargli notare come il suo collega Mino Raiola si sia risolto anche la pensione con adesso Ronaldo è vicino, cioè Ibrahimovic è vicino alla sua di pensione, adesso c'è Alan Pogba, che cosa fa non si sa, anche Rima De Ligt, che adesso è sistemato alla Juve, però vedrai che tra un po', adesso lo spostiamo, Donnarumma comunque ha dei pezzi importanti, anche se il vero procuratore di Alan è il papà. Sì, sì, il papà. Comunque, beh, lui è stato un grande affare, sì, in termini, sì, economici, sì, perché comunque è stato pagato a parametro 20 milioni, no? Poi e la... devo dire che, guarda, io conosco molto bene la realtà di Salisburgo e anche il suo general manager, tutto lo staff tech. Uh-huh. Loro sono proprio bravi nell'andare a fare questo scouting di qualità in giro in tutta Europa, nel mondo, e però potevano metterla un po' più alta la clausola per Alan. Sì, lì secondo 20 me milioni era troppo poco, le unghie. Difatti ho visto che adesso questo è un modello di business, non sono in tanti a riuscirci, sì, però sì, è un modello di business assoluto, perché con il calcio globale, la quantità di giocatori che ci sono nel mondo, se tu riesci a trovare appunto dei grandi scout e poi un ambiente protetto, che in qualche modo vale anche per l'Atalanta, perché l'Atalanta non ha vinto soltanto 4-1 contro il Valencia, l'Atalanta in questi anni ha fatto plus Valencia clamorose, sta ricostruendo lo stadio, cioè è all'avanguardia su tutto, e i giocatori che lasciano Bergamo spesso faticano o comunque non sono più quei crack che sono a Bergamo, salvo poi è tornare a giocare titolare in Champions come Caldara, che al, sì, Milan, appunto, non appunto giocava neanche l'amichevole del mercoledì, appunto, ieri sera titolare. Poi ci fermiamo per la borsa, ma tanto abbiamo un'altra mezz'ora per chiacchierare anche con voi. Quante possibilità secondo te realisticamente ci sono che, alla luce di tutto quello che sta succedendo, Messi lasci il Barcellona, Andrea D'Amico? Ma Messi può andare solo in due o tre posti al chi mondo sono? Sicuramente può andare al PSG, sì, e poi in Italia potrebbe andare in Cina per una cifra, vabbè, inimmaginabile, però non è una lusinga da trascurare, insomma, questa. E potrebbe, dopo il coronavirus, sì, speriamo che passi Londra. In Italia? No, io non lo vedo in Italia. Non lo vedi né alla Juventus né all'Inter. Ma vabbè, ci sono, mi faccio i cinesi la radiocronaca della faccia di Andrea D'Amico che cinesi mi guarda in maniera molto perplessa. Cioè, ci sono i cinesi all'Inter, potrebbero, cioè, per Suning l'Inter è un giocatorino, insomma. Se noi conosciamo le grandezze che sono in gioco, di cui, cioè, i numeri di Suning, l'Inter è un giocatorino, potrebbero anche tirarsi via lo sfizio di dire va bene, voglio avere un riverbero in Cina di quello che sto facendo in Italia, e Messi sarebbe perfetto, per cui non è da escludere. Però anche qui il calcio sta cambiando, abbiamo visto cosa sta succedendo col Manchester City, no? Secondo me, io tanto che sono contro anche questo fair play finanziario, è giusto che se ci sono delle regole vadano rispettate, certo, però il fair play finanziario non è giusto. Io sono d'accordo con te, fino a quando però non le cambiamo, se le evadi, allora è giusto che prendano dei provvedimenti, se no di cosa stiamo parlando, di che sono certezza del diritto stiamo d'accordo parlando. Borsa, torniamo. Noi abbiamo bisogno di ognuno di voi. Domenica zero deleghe, tutti convocati. Tutti convocati. Io vi sento dire, mostruosa Atalanta ha giocato, diciamo, con una squadra di stesso livello, di pari livello, perché quando ha giocato con squadre di un altro livello, l'abbiamo visto, Manchester City le ha pagate. Giocando con una squadra di pari livello ha vinto la squadra che ha sbagliato meno e ha concretizzato di più. Ieri sera pensavo che era l'Inter che ha vinto 4-1, si giocava a San Siro, le strisce nere azzurre, poi ho capito che era l'Atalanta. Forza Juve! Tremendi i nostri ascoltatori, bellissimo. Un WhatsApp, il siciliano era incredibile, eh? Sì, sì. Sono il primo ascoltatore. 3-4-9-2-3-8-6-6-6-6. Il Valencia. Valencia ha vinto in casa del Chelsea, ha vinto in casa dell'Ajax. È arrivata sicuramente con dei problemi. Non era informato. No, assolutamente. No, Valencia risulta che abbia giocato in finale di Champions League. Ma cioè, poi, tira l'Atalanta, se è lo stesso livello di Valencia, credo. Purtroppo i milanisti si ricordano che quando hanno perso la finale con Liverpool stava facendo una Premier veramente modesta, no? Quindi È come quando si dice ma è una squadra senza tradizione, ma mica va in campo la tradizione. Eh sì, cioè spiegalo al Milan. È chiaro, è come quando arrivano qui dei giocatori che dicono ma è d'estate nel calciomercato, non è tanto conosciuto, non è famoso, poi gioca benissimo, diventa un crack e lo vendi pensa a Kulusevski, 35 chiaro, milioni chiaro, di euro, chiaro. L'Atalanta addirittura ha pagato la valorizzazione al Parma. Sì, sì. Sono stati lì a discutere 50 in più, 50 in meno anche per il ragazzo venduto a 35 milioni di euro dopo 6 mesi di campionato. Certo. No, ma poi quindi andassi... il valore del Valencia è sempre quello che va in campo, perché certo. Il blasone non conta niente. Anche perché se fosse il blasone o il cognome ad andare in campo, così lo giro la considerazione al mio amico Stefano Merocaro da Sky, se fosse quello... Beh, allora siamo alle soglie di una nuova era Borg. Ciao Stefano. Beh ragazzi, però oggi Carlo, se parliamo di tennis, lo sai che stiamo vivendo ore che non avremmo mai voluto vivere. Cioè, sai cosa è successo stamattina, sì? No. Cioè tu hai presente Roger Federer operato al ginocchio, operato, cioè una roba ginocchio. Che sì, questa la ma so. A parte il clamore del fatto che no, a parte il clamore del fatto che non si sapeva nulla, non era trapelato nulla, questo testimonia che Roger è un mondo, un universo a parte rispetto a noi comuni mortali, ma lo sapevamo già. Però praticamente salterà tutta la stagione da adesso in poi, compresa Roma, compresa Roland Garros, e si ripropone come i peperoni a Wimbledon. Cioè, a Wimbledon. Ragazzi, salta, quindi Wimbledon. Salta... Beh. Tutta tutto, la stagione salta tutto fino a Wimbledon. Il rosso, fino a Wimbledon. Ero preoccupato, sì. Io no, detto poi si presenta a Wimbledon e vince. Beh, questo diciamo nel nostro mondo funziona ideale, così. Sì, funziona speriamo. Così. Senti, già l'ha fatto una volta. Quando finisce Cilic? È appena iniziato Cilic. Lo so, 4-2. 4-2. Esatto, per cui aspettiamo che finisca Cilic. Poi, quindi devo capire... Vorrei riuscire a vedere Sinner prima del padel, ma mi sa che non ce la fai. Sì, Carlo, ero preoccupato quando ha cominciato a dire così, perché pensavo che Federer volesse portare via il preparatore atletico dell'Atalanta a Gasperi. Non risulta ancora, però insomma adesso fa il tagliando, operazione torna. Al ginocchio, salta. Ma quanti Roma. Anni è? Ma 101, 102, mi sembra. È nato l'8 dell'81 e non 1881 ma 1981. Highlander, cioè, poverino, ogni sì. tanto sì. qualche acciacchetto ci sta, dai. Un altro nato sì, l'8-8-88, visto che siamo in tema di numeri compleanni, è Danilo Gallinari. Quel giorno lì, sì. io una fish ce la metterei. Senti, invece, cosa mi dici di aspettando Sinner, che oggi peraltro gioca contro Medvedev, quindi altra partita. Partitona. Da Circoletto Rosso. Stiamo aspettando. Di Leo Borg cosa... Cosa mi dici di Leo Borg? Non so no, se è bravo, ma è buonissimo. Lo sport ha bisogno di storie di personaggi, è normale? Non ma è come sì, il papà. Infatti, no, difficile. Ragazzi, Borg vinse in 7 anni 6 Roland Garros e 5 Wimbledon consecutivi. Wimbledon, cioè, stiamo parlando di uno che ebbe una dominazione durante quel periodo tale da poi essere eternato nei millenni successivi. Cioè Leo Borg poverino sì, è un bravissimo ragazzo, gioca anche piuttosto bene a tennis, ma se entrerà nei primi 200 del mondo sarà veramente un successo, cioè, poi magari entra anche nei 100, però è veramente un giocatore normale, però è un brand e questo insomma è qualcosa di importante, tanto da ovviamente da attirare la curiosità. In altri sport è successo che comunque il figlio migliorasse il papà, qui è difficile, no? Però se ricordiamo a Rosberg, se anche lo stesso Kobe Bryant, no? Maldini, anche Maldini, sì. Cioè sono storie che nel calcio la genetica ripropone, perché comunque il prato da cui nascono questi fiori è sempre un prato genetico importante. Omar da Bergamo finisce con Chiesa. Perché sì. Enrico è stato un grandissimo giocatore, però insomma, Federico può ricalcare le orme pienamente. Omar, buongiorno. Buongiorno, complimenti a tutti per le trasmissioni. Carlo, dica. io non ti ammiro, però oggi non ammiro i tuoi compagni. Perché? Semplicemente, no, perché non è che non li ammiro. Dico solo che l'Atalanta è tra le 8 squadre migliori d'Europa e Gasperini sta allenando una delle squadre 8 migliori d'Europa. Volevo detto il contrario. Sì, sì, il signore, adesso che non, non tu Pardo, ma l'altro signore che stai invitando, Andrea D'Amico, sì. Ha detto cosa che non detto? È tra le 8 grandi l'Atalanta d'Europa. Non l'ha considerato. No, forse durante la pubblicità, ma noi no, l'ho detto prima. No, se no non ti avrei telefonato, non sono uno che telefona. No, ma non mi, in tutta onestà non mi importa se l'ha detto, non sono d'accordo nemmeno io, ma non mi pare che abbia detto questo. No, anzi, no, anzi magari, ho detto che magari come è un guarda, cioè, provo. Io non ho proprio parlato di ranking. Ho detto che è un miracolo, Carboni. Un'alchimia. È creata da un allenatore che veramente è il mago, di questa Atalanta. Ma d'altra anzi, parte le 8 migliori d'euro si fa, da leggere. Come si fa a dire? Anche perché io sono stato il procuratore di Luca Percassi, l'ho portato al Chelsea a giocare al Chelsea, adesso lui è il presidente, non potrei mai dire una cosa di questo tipo. Banalmente. No, hai capito? No, ma al di là di questo, poi magari all'inizio della stagione non si poteva immaginare, no? Un Atalanta, adesso poi aspettiamo perché c'è il ritorno, però insomma un Atalanta diciamo che vince 4-1 l'ottavo di finale di andata ma ti ricordi alla vigilia dell'ultima partita, cioè dopo le prime tre partite l'Atalanta era praticamente fuori da tutto, addirittura probabilmente con leggendo così le cose anche dall'Europa League. Stefano Melocca, giusto che sei visto che sei un'autorità in materia, dimmi una canzone che ti piace dell'85. Dell'85, che fu un anno fu un anno decisivo, tra l'altro, per le nostre vite. Shout dei Tears for Fears, se devo fare il figo. Bene, fai il figo dopo il traffico. Una puntata davvero eccitante. Piena di sorprese, piena di colpi di scena, e non è tutto. C'è ancora un'ultima grande sorpresa. Tutti convocati. Convocati. Fagioli, sei campione d'Italia e non mi dire che non te lo meriti, eh? Ma ce lo meritiamo tutti. Quando pensi di aver vinto questo scudetto? Ma ci sono stati tanti momenti, però penso che il momento più ci siamo resi conto di averlo vinto è stato Torino con la Juventus. Stefano Melocca, hai visto che te l'ho messa? Te l'ho trovata. Ma ci ho preso, ci sta benissimo con quella roba lì, con il grande Giampiero. Come si fa? Come si fa a sapere le canzoni dell'85? Io ho cercato su Google, ho trovato anche che c'è Don't You Forget About Me dei Simple Minds. Sì, sì, esatto. Poi c'è esatto. Questione di fili, solo di fili. Guarda, per sapere le canzoni dell'85, basta chiederle al capitano del Verona dello scudetto, Roberto Tricella. Buongiorno. Ciao Roberto. Ciao a tutti. Ciao. Cosa ascoltavate nell'85? Ma guarda, sono passati talmente tanti anni che non mi ricordo neanche più ormai. Una storia importante. Purtroppo c'è da rammentare che sono 35 anni tra poco. Sembra ieri. È stata un'esperienza fantastica. No, non è possibile, c'è un errore di calcolo. Sì. Poi usiamo la calcolatrice. No, sono 35. Tra l'altro, Roberto Tricella, io so, sono stato a Cernusco poco tempo fa, mi hanno detto: no, non frequenta più tanto il calcio, non si muove più in quell'ambito lì, però ogni volta che si ricorda quella squadra non manca mai. Devo dire che io ho lasciato il mondo del calcio, poi ho iniziato un'altra attività. Mi ha assorbito completamente, però quando vedo un campo verde alla televisione mi fermo sempre, un po' una deviazione professionale, perché il calcio mi piace sempre, una cosa. Poi devo dire anche che le poche volte che andavo a giocare, tanto non mi stiravo quando giocavo, adesso mi stiravo continuamente, quindi ho evitato. non vado ciao più. Roberto, sono Andrea. Ciao Andrea D'Amico, ciao Roberto. D'Amico, come stai? Devo dire che però non ci ti manca. Sei ancora ritirato, sei ancora in auto. No, è in grandissime condizioni. Sai l'altro. Che io. È in grandi condizioni. Io posso testimoniare. Sembro un po' dinosauro. Ho lavorato anche per Roberto Tricella. Sì. Sì. E perché lui dopo. A Bologna? Sì. Ma quanti anni hai? Io D'Amico, 55. Anni? Cioè Federer ne ha 102, tu ne hai almeno 104. Comunque volevo dire una cosa, che ci manca Roberto Tricella nel calcio, perché sì, lui no? Ha dato molto all'edilizia, ma manca molto al calcio. Spero meno mattoni più palloni. Sì, Robby, lo sai che comunque c'è cioè, la sua intelligenza, la sua classe, non per fare così un elogio senza, sì esatto, no è quello che penso, il suo senso dell'umorismo veramente è lui la colonna sonora insieme a questi protagonisti incredibili che hanno fatto vivere questo sogno pazzesco a Verona, perché quello scudetto lì penso che rimarrà nella memoria di tutti proprio a livello proprio genetico quasi. Sì. I figli nascono già con questa genetica a Verona. Sì. Si sai, dice quella sai, cosa di non allora, si vedrà mai più. Sì. Tutti in effetti si ricordano come giusto che sia l'anno dello scudetto, però io ricordo sempre che quella squadra è arrivata dalla Serie B, ha fatto un quarto posto dopo essere stata seconda per tutto il campionato. Poi è arrivata sesta, poi ha vinto il campionato, poi il passaggio a vuoto dodicesima e poi nuovamente quarta, a 1.2 dall'Inter e dalla Juve. Questo cosa vuol dire? Vuol dire che l'intelaiatura della squadra era consolidata e poi a seconda delle scelte, perché a differenza di altri club di provincia che hanno vinto, tipo Genova e tipo Parma, tra virgolette, che non ha vinto, che però ha vinto altre cose e sperava di vincere il campionato, noi tutti gli anni dovevamo vendere due giocatori importanti per i bilanci, per questo, per quell'altro, invece gli altri tutti gli anni innestavano, quindi quella squadra, se fosse riuscita a mantenere giocatori importanti tutti gli anni, avrebbe potuto centrare altri obiettivi, secondo me. Aveva un equilibrio, una costruzione discorsi, veramente fantastica. Che possono essere riproposti per molti a un certo punto. A un certo punto aveva anche qualità, perché tu sai sì, detto, sì, sì. Il Verona di adesso è una squadra che per le caratteristiche che ha, a me piace tantissimo perché lotta, una caratteristica del suo giocatore e tutto, latita un po' dal punto di vista della qualità offensiva magari. Ah, lì c'erano Galderisi, non traduce in pratica fantastici. Tutta la mole di ripartenze che riesce a fare. Roby, ma visto che dopo sì. Tanti anni si desegretano i documenti, i file, quelli segreti appunto, cosa avete detto a Wurz durante quella partita di Coppa dei Campioni contro la Juve? Ma allora, al momento di tutto, ma secondo me ha fatto un errore, se proprio voleva girarla in quel modo, ha fatto un errore strategico, avrebbe dovuto fischiare un fallo contro il Verona, per assurdo motivava in qualche modo la mancata concessione del rigore. C'è da dire che quella squadra di quell'anno era tra tutti gli anni, 5 anni che ho fatto io di Serie A, forse quella più debole dal punto di vista organizzativo del gioco, perché eravamo passati a giocare come giocavano gli altri contro di noi, grande possesso di palla e poi prendevamo gol in contropiede. Però è diventata anche a suo modo una squadra storica. Io devo chiudere al volo, ringrazio ovviamente per Luigi Pardo e Stefano Meroccaro, Andrea D'Amico per essere venuto a far compagnia. Grazie con a voi. Claudia Schiattone, Filippo Aureggi, Elena Ligios e poi la regia di Milano, chi lavora a Milano. Ciao a tutti, ci sentiamo domani alle 2. Ciao, oh, e casomai non vi rivedessi? Buon pomeriggio, buonasera e buonanotte. Saluti!